Ora vorremmo proporvi un prossimo brano che sta sempre su questo album, ed è un antico canto gregoriano, molto bello, è una canzone che canta la vita, si chiama L'albero del pane e ve lo offriamo. Ha già posto l'assedio, ma ho scolpito il sole nel mio cuore per ricordarne il calore. Non resterò sotto il tuo arrivo mentre l'acqua cammina, riappoggiando il passo nei suoi gleti. Seguirò nuovi sentieri e lascerò così volar via dal capo la cenere. L'albero del pane ricrescerà vicino, vicino a me. Io voglio sentire la mia voce cantare, cantare di più, sempre di più. La pioggia bussa alla mia schiena, ma non cerco rifugio, non si cerchi terra su di me. Il gallo chiama gli orli. Addosso così la mia lingua gonfia di polvere, l'albero del pane mi sfamerà. Io voglio sentire il mio canto. Grazie, grazie. Grazie. Grazie ancora. Il prossimo brano è un brano tratto dal nostro secondo LP che si chiama Darwin. È un pezzo suonato che sicuramente chi ha seguito un po' il banco conosce, e penso che sia in arrivo fra poco, è un brano pieno di significato, pieno di pathos da ascoltare, quindi non vi dico nemmeno il titolo così vi gustate il piacere della sorpresa.